Avete letto, no, l'email di risposta? No, ho un appunto, hai dato una risposta non pertinente. Quando io ho lanciato quell'email, che era un po' così, che, in cui chiedevo come mi devo rapportare, perché vabbè, niente, è una cosa scherzosa, perché volevo essere efficace nella richiesta, no? E allora mi era venuto in mente, forse bene andare, o scrivo, Tu mi hai detto, no, lo scrivi, non ha problemi. Questa è la risposta non pertinente, perché non era questo il mio problema. Era come mi rapporto con questa signora, perché non vorrei che se richiedo, se faccio una richiesta posta male, viene inficiata tutta. Vabbè, niente, questo. Per fortuna la cosa non è andata così, così facciamo anche una cosa, una violinata a Francesco Cappelli. Perché poi se la merita a priori. Ecco, facciamo una cosa prioristica. Serietà, perché poi gli ho detto, poi gli ho fatto vedere, ho detto guarda, io ho buttato giù questo testo, lui mi ha detto va bene, e quindi mi sono andata. Ecco, una piccola, va bene, questo, comunque, le cose serie, questo... Ma allora, riassumere... Riassumere... Ancora non sappiamo... Non sappiamo niente. No, io poi le ho mandato un'altra email dicendo, ringraziandola per la disponibilità e dicendo che mi sarei confrontata con il gruppo e che le avrei fatto sapere quanto prima. E niente, perché se no... Perché nella risposta... Diceva di sì. Sì, sostanzialmente. Sì, però forse vuole sapere di più perché anche secondo me, e mi sembra logico. Se corrisponde agli obiettivi. No, mi sembra che ha detto. Dunque, dov'è quell'email? Mi diceva anche perché l'iniziativa è in sintonia con gli obiettivi della nostra associazione. Perciò io dicevo mi sembra molto positivo. Lorenzo, tu l'hai visto questo? Molto velocemente. Quindi lei mi sembrava, lei è, insomma, l'associazione, quindi mi sembravano molto disponibili. Il punto veramente era se, come aveva detto lei, presentarsi in modo autonomo e quindi pagare 50 euro, però non è solo questo, vabbè, è questo, è molto importante come punto, o farlo con loro. E quindi, no, che dico? Anzi, meglio. Secondo me è meglio perché dà anche lustro all'associazione, si è appoggiata da loro. Perché loro, ora bisogna richiamarla e qui penso che forse abbiamo, perché se no mi sento troppo responsabilizzata, potrei dire. Via mail ci andiamo. No, ma infatti. Ci andiamo noi come sì, una delegazione di noi, ci andiamo a parlare. No, sì, andiamo quattro, la delegazione di quattro. Va bene, insomma, va bene, sì. Come non siamo tanti? Sì, no, appunto, perciò andiamo una delegazione. Siamo una delegazione del gruppo. No, appunto, non... No, ma invece l'ho vista molto... Gli altri sono tutti fuori, proprio tutto loro. Perciò, perché a questo punto... Sì, ecco, siccome tu spesso dicevi, insomma, l'esordio, l'uscita ufficiale dell'associazione, invece io pensavo... che a te questa soluzione di andare con loro non piacesse. No, no, mi ero fatta. No. Secondo me no. Invece. È un buon esordio. Poi dipende con chi fai l'esordio, se lo devi fare, insomma, con. Non mi viene. Con chi. Tanto non ci leva niente, insomma. Allora, quindi. Scusa, io penso che lei un po' abbia visto, inventiamo futuro, non è che ha detto. Perché che un po' si sia informata prima di. Anche su internet, qualcosa avrà visto, perché ha scritto questa cosa, mi sembra molto in linea con anche lo spirito della nostra associazione. Forse ha visto anche l'associazione dei comuni virtuosi, sì. Nominale per i boschini, sì, perciò qualcosa... Allora, per consolidare intanto ci andiamo. Bisogna andare, la prima cosa è questa. Prendiamo l'appuntamento. Sì. Mi ha dato dei numeri di telefono, sempre quel cellulare a cui non rispondeva nessuno, come ti dicevo, quando avevo qualche difficoltà. E mi ha dato un altro numero che non è quello della limonaia, perché queste erano le difficoltà. No, la limonaia non rispondeva, perché ora non stanno facendo niente. Loro hanno avuto un'attività intensa fino a dicembre, hanno fatto delle conferenze, e ora no, quindi tutto fanno via email in questo periodo. Va bene, io vi faccio sapere. Quindi per email prendi un appuntamento? Sì, prendo appuntamento via email. Quali sono i giorni per voi disponibili? Perché nella prossima settimana, io vi dico subito mercoledì, no, so di no, perché ero una cosa fuori, e tutti gli altri posso rimandare, sono cose che posso rimandare. Lunedì e un po' venerdì sul tardi non posso, queste sono due cose, le altre della settimana prossima, perché se posso anche in questa settimana, però dovrebbe essere, se le mando l'email anche stasera, quando mi può dire, domani, mi sembra strano. No, quindi nella prossima settimana, perciò la prossima settimana, che giorni hai? Ho mio figlio, Emilio Martino, che andiamo a scuola. Poi da... Aspetta, mercoledì tu potresti... Mercoledì, sì, credo di sì, mercoledì dovrei poter... Io no. Perché mercoledì devo diventare a scuola, quindi non devo avere... Quindi io potrei. Comunque tra quattro sì. Un paio di noi di... No, io ci vorrei andare perché hai capito, visto che ci ho parlato, mi sembra. Tutti i giorni. Grazie che ti dai. Per me si va a. Come si dai? No, dai! No. Io la settimana prossima ce l'ho piena e la settimana successiva parto in Francia e quella dopo ritorno. Quindi... Perché noi la prossima, ho capito, quindi non è che l'hai lanciata così. Noi poi l'altra dopo abbiamo gli scrutini. Noi l'altra. Uno, due. No, allora, questa settimana allora è questa la settimana degli scrutini, o questa settimana potrebbe essere giovedì o venerdì? Nella aspetta io alle tanto un po' di tempo 18 e se no vai direttamente inizi no. Subito da dopo gli scrutini dico se ci possiamo incontrare dopo in quella settimana la seconda settimana di febbraio sì faccio posso fare così non lo so tanto insomma quindi o venerdì nel primo pomeriggio primo aspetta perché poi ho una cosa alle 18:15 oppure te con molta dici dopo la prima dico settimana di febbraio allora, una data dopo la prima settimana benissimo e ci adattiamo con noi sì, e poi noi lo sappiamo ci organizziamo in maniera tale da averlo libero va bene sì se è meglio farci, così no è vero ci organizziamo prima va bene. Vedi che da buoni consigli? No, su queste cose organizzative io ogni tanto mi perdo, è vero? Va bene. Senti, piuttosto poi, da Boschini. Vuoi soldini? No, a parte. Cioè, quando si invita Boschini? Perché fine aprile. Forse dopo che facciamo la riunione, loro ci dicono le finestre che hanno, che potremmo occupare. Quelli della limonaia, se l'accordo va in porto, quelli della limonaia ci diranno, noi ci abbiamo libero dal giorno tot al giorno tot. Quindi l'ordine è prima limonaia e poi sì. E poi quando sappiamo, non so, i giorni che ci sono la limonaia, possiamo fare un ventaglio sì. No, perché colpa tua abbiamo spostato la settimana scientifica a fine aprile. A scuola si dice, si vocifera. Colpa di bene, mi no, perché ha detto, e quindi questo fine aprile dovrebbe essere dopo il 25 a Boschini, o se no anche in quel periodo. Non lo so com'è. Non so, perché non sappiamo. È colpa mia. Io devo andare, porto i ragazzi a Stoccolma e se tutto va come sembra, dal 13 al 17. Siamo a Stoccolma. E vabbè, però se tutto è pronto, poi tu hai anche, no? Nicola, Marco. Sì. Quando arrivi non è un problema. Sì, ma no? Durante la settimana scientifica decide poi. No, voglio dire, non hai. Se manchi la settimana prima non è un problema per te, o no? Un pochino sì, perché. Ma non è una settimana. Sì, qualche giorno, ma bisogna organizzarsi molto bene, bisogna. Quindi rimarrebbe, cioè Pasqua, che poi Pasqua. Pasqua va da che giorno a che giorno? Pasqua è il 4, quindi le vacanze. Pasqua è il 4, le vacanze. Iniziano il mercoledì. Il mercoledì si va a scuola. Che giorno viene? Allora. C'è anche sulla agenda. Aspetta. Forse. Allora, forse se il 4. Se il 4 è domenica, dunque. Andando a ritroso, domenica il 4, quindi, sabato il 3, il 30 giorni a novembre, con aprile, 31 a marzo. Allora dal 31 marzo è ecco, potenza, può essere? Allora aspetta, ti dico ancora. Per come è mercoledì? 31 marzo? Tu sei sicura che iniziano mercoledì? Sì, no, il giovedì. Giovedì. Sono allora giovedì. Iniziano il primo. Primo aprile giovedì. Il primo aprile. E finiscono il 7, come finiscono? Aspetta, 33. Ecco, il primo è giovedì, il mercoledì si rientra, il 7. Il 7 si è già a scuola. Allora, potremmo farlo o nella finestra dal 7 al 13, se lo vogliamo fare a marzo. Ad aprile. Quindi dal 7. Però bisognerebbe che ci fosse la Limunaia e anche Boschini. Scusa, ti vorrei dire che il 12 e il 13 abbiamo Scostini dei bimestri. In questa settimana, 12-17. Abbiamo, sì, ci abbiamo. E da il bimestre, io ancora non li ho segnati. Quindi abbiamo tutti i pomeriggi. O perlomeno non, dovremmo vedere, ecco. Io ora qui non ho. Okay. Dovremmo vedere. Ma tu hai le il. Non sono a. Marzo. No, perché il bimestre, scusate se vi ammorbiamo con queste cose, no, però è perché, no, avete ragione. No, aspetta, ora, no, aspetta, sicuramente il bimestre finisce il 30 marzo e quindi se non ci fosse Pasqua, gli scrutini inizierebbero l'1, il 2 e il 3 aprile, invece c'è Pasqua, quindi rientriamo dopo Pasqua e quindi, lo so. Perciò io ti chiedevo quando, ed ero andata direttamente dopo il 25 aprile, scusate. Infatti avevamo detto fino a aprile la volta scorsa. E fino aprile io pensavo dopo il 17. Però. Quando poi, inizia la settimana scientifica? Il 19. Il 19. Il 19. Dal 19 al 24 c'è la settimana scientifica. Allora, mi sa che dobbiamo andare dopo il 24. Come lo vedi? Basta che non venga visto come una rinuncia, un sacrificio, no, cioè se quello è teatro da fare, quando siete lì no, e spensierati si fa sta cosa. Cioè, no, proprio perché, ma infatti proprio per quello, perciò, perché non sia tra uno scrutinio e l'altro, se facciamo 15 giorni dopo non è no. Che. No, anzi, secondo me questa è una cosa che mi piace perché è una cosa bella. Concreta che può veramente, no? Tu hai detto che il 15 febbraio parti? No, io parto il 6 febbraio e torno il 10. No, ho capito, non sei poco. Io poi. E poi quella fine aprile. Sarebbe valutazioni terzo bimestre, no? Sì. E quindi sono in quel periodo? Allora. Poi dipende dai giorni, non lo so, ecco, perché sennò che facciamo? Un giorno magari io sono libera perché non abbiamo, non lo so, a quel punto, cioè mi piacerebbe esserci quel giorno, non è che... A tutti sicuramente dobbiamo essere. Al limite potremmo anche non andarci, non lo so, si può anche pensare se lo dobbiamo... Dunque, gli scrutini però... regionalmente vanno dal 12 al 13... al 16 aprile. Sì. Sì. No, quel mese lo conosco bene proprio perché dal 19 poi al. Perciò. 16 aprile. Sì. No, che succeda. Non per... No, per me è un disastro, perché io dal 13 al 17 ero convinto di poter andare a Stoccolma. Io ero anche l'agenzia di viaggio. Vabbè, dal 13 al 17. Se non hai... Niente, presenterai, siccome non è lo stipendio no, finale, sì. I voti prima. E del resto non si può fare... Nemmeno far fare. Perché sono quelli di 10 giorni che mi hanno trovato. E quindi, vabbè, lo dice la presta. Ma era Green Capital. C'è un motivo, dai, è molto... Ma siccome la preside, l'altro ieri, dalla segreteria mi hanno detto... La preside ha deciso che a Stoccolma non ci andate. Ah sì? Ah sì. Buona sapere. Sì. Una costipazione cronica l'ha spinto a prendere 16. Sì, sì. Per cui, boh. Ma non dovrebbe motivare. No. Sì, la motivazione è che costa tanto, ma è il primo preventivo. Infatti poi sono andato all'agenzia, abbiamo ragionato. Vabbè, ti è stata posta male, ha deciso. Tuttavia avrei detto, ma se così abbiamo deciso che invece di partire da Pisa con l'aereo andiamo a Milano col pullman, che ci costa poco, e poi da Milano con i voli pieni costa molto di meno, no? Abbiamo cambiato l'albergo, abbiamo levato la mezza pensione, insomma alla fine il prezzo è sceso. Vabbè, allora in ogni caso per sicurezza la provochiamo dopo la settimana scientifica. E fino a vedere come l'avevamo fatto? Fine aprile. Okay. La settimana scientifica finisce 19 e 24, quella settimana. Sì, 19, 24 è sabato. È sabato, il 25 è domenica, quindi uno di quei giorni, 26, 27, 28 okay. Aprile. Quindi dopo il 24. Mm. Siamo in grado di dire una mezza finestra? Cioè? Tipo dal al più o meno così sì. Si riesce ad essere più preciso e come no sì. Qui cosa sì. C'è di mezzo? C'è il primo maggio il primo maggio che è sabato non so che sì che... sì no. Se non ho sbagliato mese primo maggio sì. Questo non ci chiede no. Sì è sabato quindi io dico inizio settimana tipo il 26 no metà tipo 26, 27, 28, c'è un bel venerdì 30. Venerdì 30. Così la gente è più disponibile. Eh beh, sì, perché poi c'è l'uno. Ma voi cosa fai? Pomeriggio, la sera, quando pomeriggio. Pomeriggio. Tardo. Tu che dici? Tardo pomeriggio. Loro queste cose in genere tardo pomeriggio. Sì, può scrivere perché con comodo. Mm. Facciamo conoscere un po' la città. Comunichiamo con lui prima così. Magari ci vengono fatti bacetti così. Poi aprile si installa un po' più caro che magari l'anno scorso. Aprile dico fa pure per te. Sì, sì. Beh, se va alle 5, potrà cos'è di cominciare alle 5 e mezza. Mettiamo che dura tra tutto. No, se però, anche, a parte per lui, per i. Attento. E matita? Prima di cena. Ah, no, perché sennò macchia. Massimo. Sto dicendo? No, per gli invitati. Quello, sì, quello è tutto capito. No, gli invitati, diciamo, non è che hanno impegni il venerdì pomeriggio, siccome tu parlavi degli amministratori. Com'è la vita degli amministratori? Tipo parlando. Non lo so se il pomeriggio, sì, il pomeriggio per loro, il venerdì pomeriggio partono per il fine settimana. Il 30 aprile ci potrebbe essere, siccome non è che ci sono ponti e cose così. No, infatti c'è questo fatto che quest'anno non ci sono. Le elezioni quando ci sono? Non lo so. In aprile. Magari non fa niente che no, le elezioni. Sì, sì. No, però per... No, pensavo che ci può essere gente che parte il 30 aprile perché si fa... Il sabato e la domenica. Siccome venerdì si fa il sabato e la domenica, allora gente che va in vacanza e che parte il venerdì, insomma forse non è una data. Tu dici, Essendo a ridosso di 2 giorni di fila di vacanze. Sono giovedì? Oggi, quindi giovedì verrebbe 29, sì, è un giorno più. Il numero primo, va bene. Sì, giovedì 29. Sono quelle 9 di pari. Però è un po' rischioso decidere così notte. No, il numero primo è carico. Tanto basta fare la limonaria, poi. Beh, certo, sì. Questa è una prima data. Vabbè, che sarà in grado di proporre. Se no si sfora al 2-3 maggio, che non se è male. Se no si va al 2-3 maggio. Subito dopo il 1° maggio va bene, no? Sì. Perché è domenica. Sì, perciò 3, anche il martedì. 3 è che va bene. Lunedì. Allora, potrebbe essere lunedì, che la gente non sa cosa fare, cioè dire lunedì, si passa, delle boschine. No. No, il lunedì è un giorno che uno non vuole fare allora, niente. Allora, 3, lunedì, maggio, nemmeno boschini. E poi tutti i giorni a venire possiamo proporre, se lo... Ok. Vabbè, questo per lunedì. Va bene. Quindi se lo facciamo entro aprile, 29. E questo per la data. E poi da maggio, quello che ci dicono loro, va bene. Sì. E per il contributo da dare a lui? Io non so. Intervengo io. Cioè nel senso che parli tu. No. No, no, che intervengo. No, intervengo nel senso che parli. Allora. Cosa pensi? Vabbè, l'ho sentito, vi è già. Ha detto che vuole 200 sacchi. Perché non genere, 300. 200 sacchi. Perché lui in genere li chiede come rimborso spese. In più si riserva la possibilità di vendere i suoi libri, questo va bene, così mettere un banchetto e lì lo fanno sempre, esatto. Anche alla limonaia, sì. Che pure in più ho chiesto per i diritti del SIAE, eventuali diritti per la riproduzione del suo video, ho detto che non so proprio bene perché è loro proprietà, quindi non dobbiamo dar conto a nessuno per la proiezione di questo documentario. E poi vedremo, diciamo, come possiamo trovare una soluzione per questi soldi. Poi ho contattato Ballante e ho chiesto essenzialmente se voleva venire e lui ha detto che verrebbe volentieri. Ma ci rispecchiamo tutti e due insieme? Sì, ci incappiettiamo contemporaneamente. Stanno. E poi ho chiesto se mi esistesse qualche documento, qualche libro, qualche manuale che parlasse della decrescita con una teoria economica completa, organica, coerente. E lui mi ha detto che probabilmente non esiste. E mi ha consigliato di contattare un medico di Bologna che sta organizzando a Fano un corso di decrescita residenziale. È un chirurgo, se non è, non so, però poi ho visto che è stato anche invitato a degli incontri sulla decrescita, quindi penso che sia abbastanza in gamba. Come si chiama? Comunque lo... Sì, insomma, sicuro. Sì. L'ho memorizzato da qualche parte. L'ho pure contattato, ho mandato un email, ancora non mi ha risposto. Poi ho contattato la Dusche e non mi ha risposto. Sempre sulla stessa questione della documentazione, chi meglio di lui saprebbe consigliare, non mi ha risposto. Allora, poi ho incontrato Rocco Altieri, un docente di Scienza per la Pace, e mi ha riferito un contatto di un certo Fernando Pisello, che faceva o fa parte del WWF di Pisa. Si sono messi in contatto Rocco con sto Fernando, poi l'ho chiamato, sto Fernando è disponibile per prenderci un caffè con lui. E per parlare, diciamo, della situazione, che lui è entusiasta, diciamo, del fatto che ci sia un gruppo, un circolo per la decrescita qui a Pisa. Poi tra l'altro non è la prima volta che ci ho a che fare, l'ho anche pubblicizzato sul blog dell'associazione Scarterio, un evento organizzato da lui, in cui tra l'altro si parlava di decrescita, stili di vita, tempo fa. Poi ho contattato sto Tommaso Luzzati, che era docente e artista di economia ecologica, un corso di laurea che ormai hanno chiuso. E lui ha detto che è molto impegnato, però probabilmente verrebbe a questa presentazione del libro. Lui è un teorico. Ma Luzzati è un economista? È un economista, sì. Ma verrebbe in che veste? Per fare delle domande intelligenti. Sì, per lei sicuramente. Sì. No, però avere anche un pubblico è importante, quindi... Sì. Vabbè. Poi mi ha telefonato Maria Pia Morvillo, non so che si chiama. Come si chiama? Quello prima di Luzzati di cui parlavi? Fernando Pisello. Ah, sì. Poi ho ricevuto un'email e poi una telefonata di sta Maria Pia Morvillo, che dovrebbe essere la rappresentante nazionale della rete dei circoli territoriali della decrescita felice, del movimento della decrescita. Sì, avevi mandato la mail. Perché aveva visto un mio intervento sul sito di Pallanica. E mi ha detto che se avevamo già creato un circolo qui, se avevamo intenzione di farlo. Anche perché recentemente è cambiato lo statuto. E quindi ho una copia. Il nuovo statuto. Sì, ancora dovrebbe essere, ancora non è stato ratificato. E c'è un'importante modifica che riguarda la costituzione dei circoli territoriali per la decrescita felice. Prima mi sa che bastava essere un gruppo di persone. Ora bisogna essere almeno un'autonoma associazione di promozione sociale, costituita da sole persone fisiche. Come la chiama? Autonoma? Sì. Associazione di promozione sociale. Ma cosa accade? Ma quindi bisogna fare prima la richiesta per diventare associazione? Essenzialmente significa che bisogna essere un'associazione riconosciuta. E loro motivano sta cosa sia da un punto di vista di essere, diciamo, riconosciute da un punto di vista legale, cioè se si combina qualcosa c'è una certa responsabilità da parte di chi fa parte, e inoltre c'è la possibilità di reperire dei fondi a livello regionale, no? Lei mantiene, ma spiega, come tu pensai, le associazioni riconosciute dalla legge, dalla legislazione italiana, hanno diritto a far parte a partecipare a dei bandi di concorso per il finanziamento delle attività. Ogni costituente circolo territoriale dovrà adottare un proprio statuto conforme a quello tipo predisposto dal movimento di crescita felice, nonché assumere la denominazione di circolo. Ecco, un altro piccolo. Prima non c'era, mi sa. Bisogna denominarsi circolo territoriale del movimento per la decrescita felice di... Cioè non c'è più libertà, mi sembra che prima c'era. No, però ci si può dare un nome. Sì, secondo me sì, circo, cioè, e poi di Pisa con un nome nostro. Diventerebbe lunghissimo, ma comunque diciamo, si può fare. No, perché altrimenti è lunghissimo. Comunque con tanto parlante, cioè glielo dico se bisogna tenersi di corso. Per la decrescita felice di Pisa. Del movimento come viene? CTPDFP è pronunciabile. Prima si dice immettiamo futuro e sotto circolo piccolino, magari con asterisco richiamato. I soci dei circoli territoriali diventano automaticamente soci del movimento della decrescita felice e degli eventuali coordinamenti provinciali o regionali di cui all'articolo 7. E potranno farvi parte attivamente attraverso il sistema di delegati. Quest'altra cosa, se per caso nasce un coordinamento a livello di provinciale o regionale, chi si iscrive in seguito vi fa automaticamente parte. Vabbè, nulla di che. Allora, i soci, qua ci sono delle cose interessanti per quanto riguarda i finanziamenti e i vaini. I soci, persone giuridiche, sono tenuti al pagamento della quota annuale ed eventuali contributi straordinari, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea, come condizione per poter partecipare alla vita associativa attraverso i delegati. Una quota associativa, normalmente. Con questi contributi straordinari, che dipenderanno, diciamo, dal bilancio, no? La quota sociale è intrasmissibile, non potrà essere in alcun modo rimborsata, nemmeno in caso di recesso dall'associazione. La quota sociale è quella che dobbiamo rivolgere all'associazione nazionale? Sì. Ogni socio o persona giuridica ha diritto al voto in assemblea secondo un proprio delegato maggiore. Persone giuridiche essenzialmente sono gruppi, diciamo, associazioni. Ecco, questo è il punto importante. I soci che svolgono attività per conto dell'associazione hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte, solo se documentate nei limiti e modalità stabiliti dall'assemblea e mai in maniera forfettaria. Ecco, è un punto importante. Questo non lo diciamo, perché quindi c'è un registro con un bilancio di entrate e uscite che deve chiudersi al suo mantello, immagino una cosa. Sì, sì, no profit, non lo dice proprio all'inizio, un'associazione no profit non deve avere degli introiti. E qui c'è anche l'espulsione, eccetera, eccetera. Ah, l'espulsione è sempre a carico del circolo territoriale, diciamo. Non può essere quello centrale che espelle qualcuno che fa parte di un circolo. Quello centrale può espellere un intero circolo. Esatto. Se noi siamo dei nazisti. Sì, sì, sì. Qua lo dici, ci vogliamo infiltrare. Sì. Cioè, uno poi rovina tutti quanti. Cioè, se non prende decisione il circolo che lo espelle, poi quando lui espelle tutto il circolo. E questi sono essenzialmente i vincoli pro e contro, no? Diciamo, c'è anche questo qua che se uno se ne dà la quota non è che te la rimborsano, questo è bene che si sappia, no? Ma quant'è la quota come la quota sociale? Non mi ricordo. Se 50 se uno vuole fare parte. L'altra volta era 25-50, mi sa che per far 50 parte, come tutto il circolo. Non mi ricordo i dettagli, comunque c'è ancora la differenza se uno vuole fare parte dell'organo permanente lì, il consiglio o direttivo. Però questa cosa di costituirsi in circolo bisogna fare. Associazione, capito? Almeno associazione riconosciuta, che penso che sia fondamentale, sì, anche per avere dei patrocini. Poi il circolo lo possiamo decidere. Sì. Però come associazione per il nostro statuto. Semmai, allora mettiamo la prossima volta all'ordine del giorno, che ci studiamo lo statuto tipo che loro ci propongono e prepariamo, diciamo, un po' tutti noi, diciamo, come adattarlo al nostro caso. Quindi valutiamo l'adattabilità alla nostra associazione. E poi sulla base di questo decidiamo se, cioè anche in seguito, se far parte del movimento nazionale o meno. Però intanto una cosa che noi possiamo fare autonomamente, che abbiamo già detto un sacco di volte, è di costituirci come associazione. Con lo statuto, tutto. E purtroppo non ho portato tipo le caratteristiche che deve avere l'agenzia delle entrate e depositarlo. Sì. E in secondo tempo chiedere il patrocinio del comune, della provincia, per le affissioni, per le cose. Anzi, forse potrebbe essere un obiettivo che ci proponiamo, insomma, di raggiungere nel mese di febbraio-marzo. Così quando si tratta di fare qualche affissione, non so quali sono i tempi di queste cose, ma certo, nella speranza che l'associazione di promozione sociale mi sa che c'è una scadenza ogni anno, cioè, i tempi sono lunghi, non so. prima che venga riconosciuta dopo aver fatto la richiesta. Non è una cosa automatica. No, devo informare meglio, noi l'abbiamo fatto l'anno scorso per le due, ma sono mesi che la richiesta è stata fatta e non è ancora accettata. Ma l'associazione dei due dove no. C'è? No, ah, per il mio, la mia associazione di Dule. Ah, abbiamo fatto la richiesta l'anno scorso. C'era un termine limite, credo il 30 novembre per poter presentare. Ho capito, il 30 ottobre. E comunque la risposta non è ancora arrivata, quindi ci vuole tempo per queste cose. Non lo so, oppure dipende anche dal tipo di attività, no, penso che. Però. Vabbè, comunque bisogna calcolare anche perché. Bisogna informarci su come si fa ad aprire questa associazione. Sì. Allora, bisogna informarsi su questo, vabbè, lo faccio io, questo. Informarsi. Qui ci diamo dei commenti. Anche pratici, andare dentro l'associazione. Io pensavo quando tu dice il fatto di Boschini, no, di non bruciarsi la posso vedere, io lo interpreto la cosa in nel senso che se tu prendi un impegno con le la dimostra, che poi non si sapeva se Boschini veniva oppure no, io penso. Ah. Tu, dai, ecco, poi, perché io poi ci ho parlato con Boschini, mi ha detto ma fammelo sapere, fammelo sapere in anticipo che io che poi mi organizzare ce l'ho mandato l'impressione del Boschini di essere iper impegnato come sto Luzzati o come Luzzati addirittura ha detto non si sa neanche poi se vengo la chat, no? Sì, che vedeva una cosa molto fluida insomma, sì ho capito. E poi è motivato che magari... Come no? Libri, ma sì, perché... sì. E poi a parte il fatto, proprio per diffondere insomma l'idea e tutto. Dunque, io vorrei supporre questa cosa, perché averceli tutte e due sarebbe bello, però io lo vedo un po' come uno spreco. E nel senso che potremmo organizzare poi un incontro a parte con un parlante successivo anche perché perlomeno io lo trovo antipatico quando vai c'è una riunione c'è tantissimi esperti, relatori eccetera i cui interventi sono concentrati un quarto d'ora a tempi stretti, non rilassati e la gente alla fine rimane poco, insomma. Mentre l'idea di, appunto, decidiamo le parti da visionare di quel film, cioè il tipo di struttura che volevamo dare all'incontro, secondo me se ogni volta ci proponiamo di incontrarci, cioè di mettere dentro uno di loro, Boschini, e poi la struttura dell'incontro, appunto, relazionale sulla base del video, in modo che creiamo un'aspettativa per incontri successivi in cui possiamo annunciare la prossima volta incontreremo ballante, incontreremo l'amministratore e così via in modo da evitare queste situazioni in cui ci sono tanti relatori, poco tempo e poco spazio per il pubblico. Se lui è disponibile a venire anche sarebbe interessante poi invitarlo che nel momento in cui si decidessimo da associazione, da passare, passaggio a circolo, allora poi insomma, a quel punto lo chiediamo come fondatore del circolo della decrescita. Prima ci facciamo conoscere anche come associazione che insomma simpatizzante della decrescita si vede in quello che proponiamo. Se poi decidiamo questo passaggio, la gente sa, cioè, ci siamo fatti conoscere e così via, a quel punto invitiamo parlante e diciamo che siamo diventati circolo della decrescita. Io direi così, insomma. Sì, comunque io questi aspetti non li vedrei come proiettori di verità, semplicemente persone con cui parlarci, anche al di là dell'evento stesso. Cioè anche cambiare il tipo di rapporto con queste persone. No? Sì, sono d'accordo. Cioè, se poi lui pretende, parlando, di venire qui e relazionare alla pari di Toschini, allora ovviamente sarebbe una sovrapposizione, mancherebbe del tempo per far partecipare la gente. Io direi, farli parlare come tutti gli altri presenti, cioè queste persone. Sì, ma non sono come tutti gli altri. Non sono alla pari degli altri. Loro due dovrebbero essere... Cioè, sì, li mettiamo in mezzo agli altri. In mezzo agli altri, vedete, no? Che per gli altri super sono un punto di riferimento, no? Non è... cioè, non sono esattamente come gli altri. Cioè, sono interlocutori qualificati verso i quali si dirigono delle aspettative grosse, per cui avercene due è un po' uno spreco, perché tutte e due magari hanno moltissimo da dire, cioè per corrispondendo il pubblico. E semmai forse potrebbe essere questo che ci si propone, quando vengono fuori, mettiamo nel primo rapporto con Boschini, magari vengono fuori elementi importanti, significativi. Noi ci possiamo proporre di non disperderli, tanto più che registriamo e studiamo la prima relazione, cioè il primo incontro. Dopodiché tematiche importanti le possiamo proporre nell'incontro con gli interlocutori successivi. Ma facciamo una cosa più originale, del classico gruppo che per fare delle conferenze, delle cose, rivoluzionano un po' il modo di pensare, diciamo, no? Ma non lo so, così non è una conferenza. Io non lo so, io potrebbe un po' cambiare, c'è sempre la solita storia. Cioè, queste persone che riservano, si guardano lo spettacolo, poi se ne vanno. Appunto, ma così non è. Cioè, allora, com'è una conferenza tipo? Ci sono 4-5 esperti messi in fila. C'è un cosiddetto moderatore che dà la parola in successione ai 4-5. Dopodiché c'è l'intervento del pubblico. E in genere i tempi sono ristretti per il pubblico. Allora, noi in che senso cambiamo? Decidiamo che parti visionare del video. Magari facendo un montaggio, semplicemente mandando avanti il video con il codice, facciamo vedere questa parte, ci segniamo i tempi, per esempio, da qui a qui lo facciamo vedere, da qui lo facciamo vedere. E quindi nel momento in cui facciamo vedere una certa parte su cui raccogliamo gli interventi del pubblico e insieme agli interventi del pubblico quello di Boschini. Dopodiché, che ne so, facciamo vedere un'altra parte del video, quando ci sentiamo che la discussione su quella parte si esaurisce, e di nuovo raccogliamo gli interventi di tutti, insieme a quello di Boschini. Questo dovrebbe un po' rompere, e nello stesso tempo non... perché l'aggiunta di Ballate, che sì, può arricchire, ma poi può, cosa può succedere? Ci sono tutti e due, e siccome sono tutti e due parlano troppo loro, non parla il pubblico. Perché i due poi, una volta sono lì, sono venuti col treno, eccetera, eccetera, quando parli. Sì, è una figura. E poi ti ascoltano. Pronto? Ciao Edoardo, dimmi. Ma ci sto pensando anch'io, non lo so. Ah, già. Domani. Ma la cosa si potrebbe. Cioè, lui non c'è molto pragmatico, cioè, ma. Infatti, trattare parlare lo spreco, no? Non è più lo spreco. Perché sarebbe bello, bisogna rompere questa cosa che le persone dicono forza Grillo, forza Ballante, forza Di Pietro. A me sta cosa bisogna spezzarla veramente nei confronti dell'autorità, dell'obbedienza. Però penso che era diverso questo è il fatto. Non per soggezione di due anni era proprio per... Perché parlante deve pretendere di parlare di più? Perché è più importante, cioè io penso molto nell'interazione delle persone, che ogni persona... In un tavolo come Boschini, magari la disposizione è circolare, però Pallante lo presenti agli altri o no? O presenti solo Boschini? Pallante sta lì come... No, perché deve parlare più degli altri? Cioè una persona che può dire cose interessanti in poco tempo, potrebbe essere invitato di più a parlare dagli altri, hai capito? Dici così. Preso come punto di riferimento. Tutti fanno domande a lui. E come spezzare questa cosa? Non è che lo incontri per strada, cioè lui viene perché l'abbiamo invitato, quindi è semmai quello che credo sia importante è eliminare quel momento in cui lui relaziona e poi rimane poco tempo. Semmai bisogna valorizzare la presenza di loro perché sono fondatori di movimenti, tutta l'esperienza che hanno in corso e così via. E quindi valorizzarli al massimo, cioè non sprecare la loro presenza lì perché c'è costata soldi, tempo, organizzazione e così via. Se poi accade che li utilizziamo, al 20%, cioè dimmi una dinamica in cui si sprecherebbe la loro presenza lì. Se accadesse che parlano poco tutti e due. Sì, c'è poco tempo per ascoltarli sino in fondo. Ti rendi conto che... Sulla base delle necessità dei presenti, insomma. Cioè la gente vuole sapere, chiede, interloquisce, eccetera, ma non c'è tempo di avere da parte loro tutto ciò che potrebbero dare. E sei d'accordo che ci sarebbe meno interazione? Le persone riflettessero di meno se ci fosse una sola persona esperta che due o tre o quattro. No, certo. Perché tutti vedono in quella persona e tutti fanno domande nei confronti di quel centro propulsore di verità preconfezionate. No, c'è un centro che è invitato da fuori e che è il motivo per cui tutti si riuniscono, no? Poi si potrebbe anche organizzare una cosa completamente diversa in cui non c'è questo punto focale d'attenzione da parte di tutti, no? Però se ci sono troppi di questi che abbiamo invitato, secondo me si va a finire che... Se sono troppi va a finire che li valorizzi poco, insomma. È importante che anche loro ascoltino. Io potrei valorizzare la gente che viene. Loro già sono valorizzati perché sono riconosciuti, sono popolari, sono famosi. Il nostro non è un intento di promozione di Boschino, di promozione di Pallante. Poi sentiamo anche... Vabbè, sentiamo, perché io sono molti noi. Noi lo chiamo solo Ietti. Ma è poco... No, io in effetti non... Cioè, mi chiedo veramente come si possa cambiare le dinamiche, le solite dinamiche, perché sono venuta anch'io, anche tu c'eri, a quella conferenza che hanno fatto qui all'università poco tempo fa, non so. Era dopo la prima volta che sono venuta qui. Quale? Ma su cos'era? C'erano... Veramente, già passato. C'erano tre o quattro relatori, questo moderatore, e questi qui hanno parlato tutto il tempo e alla fine, dopo due ore, hanno chiesto se qualcuno voleva fare domande, erano le 10. E quella è una domanda retorica rivolta al pubblico. Erano le 10. Vuoi fare delle domande? C'era la metà delle persone che era andata via. Certo. Quindi, cioè, spezzare questo modo di fare che è assolutamente inutile ormai, cioè tanto a questo tipo di conferenze ci va chi sa già, quindi ascoltare di nuovo le cose che hai già lette non vedo più il punto, quindi trovare un modo di interagire che ti permetta di completare le tue informazioni, o semmai capire in quale modo applicarle, perché sulla teoria siamo tutti molto, molto preparati, abbiamo tutti letto i libri di tutti. La parte sulla quale siamo meno preparati è come applicare queste regole. Forse da Boschini, che ha applicato diverse cose, possiamo imparare, però appunto interagendo a questo punto, se c'è la possibilità di dire, vabbè, come si fa di fronte al Consiglio Comunale a far capire che nel bilancio conviene attribuire i soldi a questa cosa qua piuttosto che a quest'altra, convincere che così non si perde soldi ma che si fa meglio, cioè, insomma, le cose pratiche andrebbero, e le cose pratiche si imparano solo scambiando, cioè, solo interagendo direttamente con la persona, non ascoltando il suo commento. Anche il fatto di proiettare il video, vabbè, sì, proiettare il video forse ci può risparmiare appunto quella parte di presentazione in cui parla solo il relatore, però vuol dire che il video deve essere al posto della relazione. Cioè, nella scuola delle rinnovabili succede una cosa molto interessante, che i partecipanti della scuola parlavano tra di loro e ogni tanto interveniva in maniera accessoria e paritaria il relatore, dopo aver fatto la presentazione. Cioè, non era che loro facevano la domanda, non è che parlavano tra di loro i partecipanti. Sì. Però alla presenza del relatore. Esatto. Quindi immaginiamo, proiettiamo il video, la gente incomincia a dirsi, vabbè, si potrebbe fare così o si potrebbe procedere così, e Boschini interviene, dice, noi abbiamo fatto così e cos'ha. Allora facciamo esplicitamente, proiettiamo una parte del video e poi diciamo, diamo, che ne so, 5 minuti in cui diciamo al pubblico, pensate al video, parlatene tra di voi e concepite domande. Però questo temo che sia difficile, perché non siamo in un'aula con dei bambini, perché cioè persone che non si conoscono. Comunque la limonata, una cosa importante che dobbiamo introdurre nei gruppi grossi una componente che è un minimo di tempo per pensare, anche quando si è in tanti. Questa è una cosa che non c'è mai, è come se immediatamente siamo pronti per parlare, no? Cioè noi diciamo, ora facciamo, dopo aver visto questo pezzetto di 5 minuti in cui parlate tra di voi, prendetela come una pausa di riflessione, poi ci pensate su, e dopo 5 minuti, in questi 5 minuti però diciamo esplicitamente di concepire, cioè di ripensare a quello che hanno visto, concepire domande, curiosità, interrogative, eccetera, da rivolgere poi. Diciamo che li direzioniamo su Boschini, ma chiaramente a leggere in sala sono per tutti. A quel punto si focalizza l'attenzione sul Boschini. Quelle domande sono di tutti, tutti sono interessati. A però potremmo darci dei tempi a questo punto, nel senso che il tempo di passare alla seconda parte del video, cioè il video fa da trade union, forse potrebbe essere da percorso, dopodiché quando ci sono stati gli interventi, le risposte di Boschini, c'è stato un minimo di passiamo alla seconda parte. Il video forse lo dobbiamo studiare come quali sono le parti da far vedere che possono avere questo compito. Dopodiché non dobbiamo disperdere tutto ciò che è venuto fuori, ma utilizzarlo anche per gli incontri successivi, cioè non so, le stesse domande, quelle importanti a cui è stata data una risposta più o meno esauriente. Poi magari negli incontri successivi la stessa domanda viene rivolta a, che ne so, a Pallante, se c'è Pallante, o ad altri, se ci sono altri, insomma. In modo che tutto registrato viene fuori in forma Se scegliamo per esempio i pezzi che più potrebbero invogliare la gente a dire sì, questo è fattibile qui, immaginiamo come. Ecco, per far scattare questa cosa qua nelle persone, come possiamo fare questa cosa qua a noi? Forse questa è la domanda di base, potrebbe essere. Le cose più vicine alle cose che possiamo fare. Magari all'inizio è più facile, perché forse lanciarsi con un progetto più facile... Cercare di capire chi potrebbe far parte di questo incontro. Se verranno molte mamme, allora proponiamo live Oedipus, eccetera, eccetera. Se verranno degli amministratori, allora proponiamo qualcosa che possono fare gli amministratori in maniera più agevole, in tempi brevi. Allora, diciamo, con Boschini può essere una cosa generale, perché lui è presidente dell'associazione. Poi, magari successivamente, se dobbiamo organizzare una cosa più mirata... Dobbiamo approfondire. Sì, allora individuiamo interlocutori, appunto, i Piedibus, le mamme, i maestri, gli amministratori, quelli che l'hanno già fatto, esperienze vicine, c'è Scandicci, c'è... Insomma, creiamo una situazione in cui convergiamo su una parte. Scegliamo un tema. A tema. Quindi con Boschini potrebbe essere generale. E poi potremmo anche, cioè, visto che ne so, vedere esperienze di Piedibus anche in altri paesi, cioè se riuscissimo a fare dei collage, no? Però c'è l'esempio del Piedibus. Se noi riuscissimo a fare ogni volta con queste parti da visionare, che sono collage di Troviamo in Rete, questa di Scandicci io la conosco, poi lì c'è sul video ce n'è un'altra. Qual è quella che c'è sul video? Di Piedibus. Comunque ce n'è un'altra lì. E poi se ne trovassimo altri, magari di un paese europeo, che ne so. E quindi facciamo un collage, le mettiamo insieme e le proiettiamo. Gli interlocutori sono gente che magari qui ci ha già provato, gente che ci è già riuscita, che hanno fatto piccole esperienze di collettivo, che ha fallito, oppure invitiamo, che ne so, l'amministratore si occupa di mobilità. Insomma, tutti quelli che possiamo individuare, a quel punto convergiamo su un tema. Comunque la limonaia, giusto per vedere l'ambiente che sarà, no? Perché proporre uno stadio, quello che dice, non ha senso, sono lì 50 posti, quanto ci saranno? 70. 70 posti? Si prestano. Poi Beniamino e i suoi, nella scuola delle rinnovabili, hanno avuto delle idee abbastanza buone, tipo degli spazi di convivialità di mattina con un piccolo banchetto con dei dolci a fare colazione, quindi la gente già ha cominciato a conoscersi per questo c'è nei giorni poi c'è il vantaggio di vedersi più giorni, mangiare insieme, mangiare insieme, eccetera eccetera. Comunque già si può iniziare a creare questo gruppo più unito, no? Per permettere quello scambio di domande, no? Di pareri subito dopo questa proiezione. Altrimenti se lo poni così tra persone sconosciute, è chiaro che quelle magari chi si fuma la sigaretta, chi si guarda i libri di Boschini, chi si guarda il cellulare, non succede niente. Cioè, diciamo, rimane sempre il fatto che tanto c'è il medium che è preimpostato, se noi non facciamo niente ci sarà comunque la previsione. Quindi rompere questa adesione al modello mediatico. Cioè, nel caso non succede, noi non facciamo nulla, non succederà la cosa preimpostata, ma avverrà qualcos'altro. E poi c'è il questionario, loro taravano bene, diciamo, tutta l'organizzazione, anche dalle giornate successive, in base a un questionario all'inizio e alla fine della scuola. Questa è una cosa positiva. proprio per migliorare. Ma quella però è una scuola, appunto, sono giorni successivi. E anche lei, se vogliamo fare più incontri tematici. Ma mica giorni in sequenza, non li chiamano. No, però no, per il futuro. Possiamo prendere l'idea. Che sì. Critiche, no, le critiche che ci vengono, magari a noi ci sfugge sì. qualcosa. Sì, questo sì. L'occhio dell'organizzazione spaziale. Sì. È più chiaro come devono andare le cose successive che quella di Boschini. Quella no, l'ho capita, mi piace, le mamme, quindi cioè, selezionare il pubblico in base al tipo di intervento che vogliamo proporre, sì. E quindi la partecipazione la vedo se si fa così. Invece Boschini, abbiamo detto, rimane più ampio, no? Una cosa più... Però ecco, questo l'ho capito di meno. Boschini, facciamo? Perché Boschini è... Ed è diciamo, giusto però partire... Il fondatore... Sì, presidente della... Sì. O se pure il fondatore. Sì. E quindi della si presenta tutto il movimento. E quindi... Quindi più generale. L'interazione, la... Poi che ne so, l'interattività dipende molto dal pubblico anche, no? Quindi... Boschini va un po' da... Sì, prendiamo un pubblico più generico. Cioè non specifico. Se per esempio contro sarebbe difficile fare, cioè, dire sì, ci rivolgiamo. Forse allora il primo incontro deve essere di presentazione anche. Vedere la gente come reagisce, chi viene, se vengono più ingegneri, no? Se viene secondo. Dovremmo essere in grado di annunciare, di delineare anche per grandi linee il percorso successivo che proponiamo. Forse anche noi ce lo dobbiamo chiedere. Per esempio tu dicevi prima di economia, no? Cioè l'economia della decrescita. Tante volte abbiamo parlato della moneta locale. Anche questo ha un risvolto pratico, no? E ci sono esperienze in atto. E anche lì potremmo individuare interlocutori specifici, mettere... Cioè non è che necessariamente arriviamo al piedibus o necessariamente subito sì. dopo c'è un gruppo che si occupa della fitta di moneta locale, è per smuovere un po' ancora di più, insomma, per creare dibattito culturale intorno a questi temi. Quindi che ne so, facciamo un incontro sulla moneta locale e vediamo dove, quali sono i comuni in cui è più praticata, dove c'è più esperienza, anche lì. Ci scegliamo che in rete ci sono tutti. Ti ricordi quello che mi proponesti te su... La Kennedy? Quella è la Kennedy e quella l'esperta. Ma poi c'era un altro, sì, nello stato, in un paese americano, insomma. San Francisco. Sì, ma mi ricordo che era molto carino quello, cioè era, veramente si capiva bene come funzionava. E quindi, insomma, se noi riuscissimo anche nel primo incontro a prospettare una serie di incontri successivi, a dare l'idea che c'è quello di questo, questo è stato, potrebbe essere appunto quello con Boschini l'incontro d'apertura. Poi, parlante, non lo so, cioè, no, se facessimo un incontro proprio sulla decrescita in generale, di ampio respiro, successivamente, io sono meno per quelli, sono più per convergere su cose che hanno risvolti pratici. Comunque, in effetti, se c'è un momento in cui passiamo da associazione di promozione sociale a circolo territoriale, sarebbe un'ottima occasione di invitare parlante. Direi che poi la più appropriata. È stato la Touche a Rebentia. C'è stato Bonaiuti diverse volte, che è quello dell'altro movimento per la decrescita, ma Pallante si invitava molto tempo fa e non c'è mai stato qui, da quando lui è fondatore del movimento per la decrescita felice. Quindi probabilmente se non lo facciamo noi subito lo fa qualcun altro. Vabbè, non è che succede niente, sì. Ma insomma. Ma ad esempio questa... A questo incontro si invita anche Gesualdi alla presentazione. Lui espressamente invitare lui? No, lo saprà, sì, lo verrà a sapere se vuole venire. Mentre gli amministratori, sì, si invitano sì, in modo... Ma loro, se Gesualdi, se non lo inviti lui personalmente, arriva. Non so se... Quindi, perché... Non arriva. Secondo te arriva, Gesualdi? Io lo conosco. No, io non credo che arrivi. Magari tanto Giorgio Carlo. Sì, può prendere qualcuno. Ma che domanda è che ci viene Giorgio Carlo? Perché lui è un... Che... però è già parecchio impegnato con l'altro gruppo, infatti io mi sono stampata, siccome avevo il compito di cercare i punti di studio, sì. Individuare interrogativi su cui lavorare come autoformazione, non ho preparato niente. Ho stampato il suo riassunto della riunione a Firenze, perché c'è stata la riunione di tutti i gruppi. Questo l'ho fatto io. Di tutti i gruppi. Santo Giorgio. Che si stanno creando intorno all'appello di Gesualdi. Quindi c'è stata questa riunione a Firenze e Giorgio Carpi ha scritto 4-5 pagine. E mi sono stampata un po' i temi sui quali loro lavoreranno. Hanno deciso di lavorare su dei temi, cioè più o meno intendono fare così, lavorare per 2 mesi su un tema, ogni gruppo su un tema diverso, fidandosi dell'altri, perché se ogni gruppo dovesse lavorare su ogni tema 2 mesi ci impieghiamo diversi anni, invece facendo così, spezzettando il lavoro, diventa un apprendimento cooperativo, insomma, una modalità. E quindi hanno elencato diversi punti che potranno essere modificati, però questi punti per ora la proposti Gesualdi. Ah, ecco. Questo tipo, osservazione. Sì, lo capisco. La proposti lui e mi sembra che siano abbastanza imposti, anche se lui ha detto che si possono modificare, sembra che si possano modificare. Mannano, o comunque integrare solo una volta che avranno già studiato questi temi. Cioè, vengono considerati importanti il tempo. Sì, ho capito, sono importanti, li dovete prendere in senso. Però ora poi hanno discusso sull'ordine in cui discutere, ma ci sono 10 temi principali e per ogni tema ogni gruppo proporrà un sottotema che, su quale rifletterà. Quindi 10 temi per 2 mesi ciascun tema e ogni tema spezzettato in più parti che verranno sviluppati da ogni gruppo. Il primo tema che è proposto è c'è ancora spazio per la crescita e quindi poi lì in sede di questa riunione hanno proposto dei temi di approfondimento, lo stato delle risorse rinnovabili e non rinnovabili, cioè proprio fare uno stato delle cose, lo stato della contaminazione ambientale, il diritto alla crescita degli altri, c'è spazio per tutti, le alternative ai combustibili fossili, rischi, limiti e potenzialità, eccetera, eccetera. Cioè, ogni gruppo potrà proporre un sottotema e lavorarci sopra. E così via. Però sembra un lavoro molto grosso, comunque, nel senso. 2 mesi soltanto per riflettere anche su un sottotema mi sembra poco. Per un gruppo di 20 persone, ad esempio, che si riunisce solo 2 volte al mese, mi sembrano tempi corti, allo stesso tempo forse costringe a mettersi veramente al lavoro. Sì. La cosa che notavo infatti era questa, forse ha fatto per smuovere. In ogni caso lo scopo è poi creare un movimento politico. Ne hanno parlato, in questo documento era scritto proprio, ora io non l'ho stampato, questa partito. Un movimento politico, non un partito politico. No, per ora si parla, però cioè, hanno comunque intenzione di anche riflettere su questo tema del partito o meno. L'intenzione di rifletterci c'è. Anche nel gas. Perché ci sono alcuni gruppi che hanno proprio fatto questa richiesta. Ci sono alcuni gruppi che proprio vorrebbero andare verso un partito. Quindi alcuni gruppi hanno proposto questo tema come tema di riflessione. Ma quindi anche per loro il fulcro è, si dice, della decrescita, no? Anche quello. Chiaramente sì. È che certo. Perché le condizioni del lavoro, mi sembra. Il secondo tema, perché c'è ancora spazio per la crescita, questo è il presupposto per poter iniziare. Il secondo punto, il primo secondo me, lavoro prima vittima della decrescita, quali alternative al lavoro salariato? E questo sarà il primo tema affrontato veramente. Questo è un tema interessante. Questo lo affronta anche Boschini, perché anche la Serena Dandini, questa domanda in modo chiaramente adatta a uno spettacolo, così l'ha fatta lui. E anche nel video, no? La parte della salvaguardia del territorio, quindi non costruire di più, c'erano degli imprenditori che dicevano che in realtà il lavoro non era stato perso, imprenditori edilizi, insomma. Quindi questo argomento viene fuori, lui rassicura molto su questo, io non lo so, in modo teorico anche a me sembra che non ci sia, no. Però appunto in modo molto teorico, poi bisognerebbe vedere dati, seguire le cose nel tempo. Boschini ne è certo che non. Quindi in ogni caso può venire fuori. Delle ricadute sul lavoro c'è, cioè ci sono. Delle ricadute tu dici come diminuzione del lavoro, della. La prima impressione è questa. Io ho l'idea che il processo di decrescita deve essere lento, non può essere una cosa così tu curi. Certo. E allora, però è una cosa fatta proprio da chi non ha competenze di economia, un po' come me lo sono un po' visto leggendo anche il libro L'Anticassa, vedendo il video. È venuto fuori questo qua nella riunione loro, che le persone hanno detto. Sì, ci sono tanti punti qui che trattano di economia, ma noi non siamo nemmeno in grado di parlare di economia, ecco. Però anche questo bisogna un po', insomma, smitizzarla, questa cosa, che invece occorre la laurea in economia per poter parlare di economia. Perché secondo lui è proprio principale. È principale. Infatti la dinamica della crescita. Cioè, il problema è che la crescita non porta all'aumento dell'occupazione, ma esattamente il contrario. Perché la crescita presuppone la gestione della sovrapproduzione, si produce molto di più di quello che serve, prima cosa. Quando si è in fase di sovrapproduzione accade che la competizione tra chi sovrapproduce, cioè se tu produci tantissime automobili, le case automobilistiche o si associano e diventano monopoli, come sta accadendo, no? Nel senso che uno compra l'altro e diventano monopoli. Diminuiscono i posti di lavoro. Diminuiscono i posti di lavoro quando ogni volta che c'è un assembramento. È un'occasione per licenziare, eccetera, eccetera. Quindi è la struttura che... Sì, oppure si dislocano, ti dicono, ma la competizione è talmente terribile, noi possiamo sopravvivere come azienda se si abbassa il costo del lavoro. Se si abbassa il costo del lavoro diventa una pressione su... cioè diventa un motivo per andarsene, per portare tutta l'azienda altrove, il dislocamento, no? E così il lavoro non c'è più. Appunto, e si produce disoccupazione. L'altra cosa è che tutte le tecnologie che vengono concepite sono tecnologie che mirano all'aumento della produttività, cioè a dire tecnologie che permettono di ottenere più prodotto con meno lavoro, no? Quindi informatizzazione spinta, processi di questo tipo. Tutti i prodotti tecnologici che espellono lavoro dal ciclo produttivo. La decrescita è opposta a questo, genera lavoro perché mantiene... Sì, perché fa una scelta opposta, perché ma cosa succede per esempio? Intanto le tecnologie che concepisce sono quelle che mirano, per esempio, nel campo energetico all'uso razionale dell'energia. Uso razionale dell'energia cosa significa? Che non aumenta il PIL quando intervieni su una casa e fai la... Il fotovoltaico, tutto questo. Sì, perché va a finire che usi meno risorse, cioè spenderai meno, risparmierai. Però dicevo stesso, insomma, le tecnologie del risparmio energetico in pratica fanno abbassare il PIL e quindi sembrerebbe che deprimano, ma in realtà tu pensa a tutto il patrimonio edilizio esistente. Si può intervenire in tutte le case, gli impiantisti, quelli che fanno la coibentazione, possono mettere i pannelli. Quello lo faceva vedere proprio per questo, perché parlava lui, l'imprenditore, diceva anzi ho più lavoro. C'è questa... Chi finanzia questo? Lo finanzia il fatto che costruiva, faceva vedeva insomma palazzi vecchi, faceva, anzi diceva anzi anche con più gusto, è chiaro che se lo sono scelto, insomma... Quindi, hanno trovato uno che condivideva le loro idee, però era molto convincente su questo, perché il punto, vabbè, come lo vedo io in modo molto, sai, che parli di energia, di conservazione del territorio, lo vedi bene quando parli, non usiamo i detersivi, allora quelli che lavorano in effetti lì negli stabilimenti DASH, è chiaro che fanno allora, c'è una minore richiesta, perciò queste cose possono essere graduali, perché già, non so se hai visto alla COP, ci sono delle marche che non danno più i contenitori di plastica, ma iniziano a mettere i detersivi in involucri, sai, in modo che tu poi utilizzerai un contenitore e quindi inquini di meno, perché non produci ogni volta. E quello può essere un po' il passaggio, non puoi dire facciamoci tutti il detersivo in casa, perché sennò questi che fanno? Il discorso delle acque minerali che viene sempre, anche quello sarà graduale, sarà su queste cose è il tempo, però è un fatto anche culturale, è un fatto, non utilizziamo pannolini per i bambini, e che fanno? Quindi insomma, invece sull'energia, su queste cose si può andare anche spingere un po' di più, perché insomma è un problema. Comunque loro appunto affronteranno tutti questi temi in maniera più approfondita personalmente, cioè pensandoci le loro teste anziché non così, diciamo, anche sull'onda. Certo, avranno dei documenti di riferimento che alcuni vengono messi a dopo queste idee, sulle cose grosse dove poi quasi ha più senso perché vedi di più il benessere, proprio la distinzione tra merce e bene, allora là lo vedi. In altre cose vedi anche, capisci la preoccupazione degli operai, di chi lavora, insomma, su quello sì. Comunque negli incontri dovremmo mettere come un po' come scopo quello di appunto. Aiutare le persone ad iniziare a fare queste riflessioni tra di loro. Sì. Sì, l'idea dell'autoproduzione, del risparmio, dell'auto-organizzazione e qui si ha sempre meno bisogno di merci e più bisogno di beni, la distinzione tra bene e merce, produzione di beni piuttosto che di merci, anche questo è una crescita. Quindi se negli incontri riusciamo a mettere in moto riflessioni e poi anche, perché sì, è vero che la fabbrica produrrà meno pannolini, però verranno fuori pannolini di altro tipo, e ci saranno molte persone che ne beneficeranno, nel senso che... Perciò dicevo lento come processo, hai capito? Perché una riconversione, una... anche in termini economici, appunto lui diceva ci vuole l'economista che fa il conto, è vero, perché se te conti solo il fatto che quelli che producono i pannolini tradizionali ci sarà bisogno di meno lavoratori, che poi sono tutti processi automatizzati, i pannolini lì vengono prodotti, a lavorarci sono in pochi, allora bisogna vedere quando introduci pannolini lavabili chi ci guadagna, guadagnano le singole famiglie che spenderanno molto meno. Ci perderanno quelli che bruciano i pannolini perché con la storia del CIP 6 poi hanno meno pannolini da bruciare. E poi ci guadagna anche, che ne so, il sistema sanitario nazionale perché utilizzando meno pannolini. No, ma io lo condivido. Farlo capire e studiarlo un po' e capire che certe cose sono graduali, no? Se possiamo fare delle osservazioni macroeconomiche, tipo scuola, istruzione e salute sono le prime due voci ufficiali degli stati, cioè degli stati industrializzati. Quindi migliorare gli stili di vita, rendere l'ambiente più salubre, farebbe in maniera tale che ci sia un ritorno economico rilevante per lo Stato, per diminuzione della spesa sanitaria. Poi ci sono degli esperimenti a livello globale con il buco dell'ozono. Cosa successe? Non è che sono chiuse quelle fabbriche, anzi hanno incentivato i ricercatori a sviluppare delle tecnologie che non facessero uso del freon di quelle sostanze inquinanti. Quindi non è che quello hanno chiuso, sono un po' ribellate, ma poi è successo quello. E questo è un punto importantissimo, perché ogni volta che si dice no a un certo a una cosa che inquina, si costringe alla ristrutturazione e si induce la ricerca scientifica, quella tecnologica, a produrre cose più virtuose, insomma. E poi c'è a livello locale si spiegano i casi, per esempio con la raccolta differenziata, no? Cioè è vero che magari è più difficile, anche se lì bisogna dipendere dall'organizzazione. Una cosa deve essere semplice, la tecnologia deve mirare alla semplicità, una cosa deve essere semplice da fare, la raccolta differenziata deve essere resa semplice, non deve essere vista come un peso. Lì le materie prime non le fai arrivare dall'Africa, il silicio non lo fai venire dall'Africa, da altri stati, la plastica ce l'hai in loco, quindi tu risparmi nel trasporto, nell'estrazione di materie prime, favorisci l'economia locale, per esempio a Pedelago, la parte che non si riesce a differenziare dei rifiuti urbani si utilizza, si polverizza e si utilizza per costruire mattoni. E quella materia prima costa zero, cioè tu prendi un rifiuto e lo utilizzi per costruirci le case. I piedi, che ne so, risparmi in infarti, che ne so, cioè vedi la gente che si parcheggia, io lo vedo qui al Don Bosco, si parcheggia, quindi i ciclisti si ammazzano che occupano tutte le piste ciclabili, la gente gli viene l'infarto che suona dalla mattina alla sera, disturbo della quiete pubblica, alle 7:30 di mattina si sente un rumore per quelle strade incredibile. Non è nato nelle grandi città che qui è tranquillo. In generale uno è spinto a pensare che non sia un collasso E poi c'è sempre la regola di Pallante, insomma, per treppiede. Cioè, se noi manteniamo lo stile di vita e vogliamo adottare la decrescita, e non ci sono scelte a livello politico, a livello economico, di scelte politiche in campo economico, e la scelta della decrescita sarà vana. Okay? Cioè, queste tre cose devono andare insieme. Certo. Se io voglio la Coca-Cola o voglio andare a 300 all'ora, la tecnologia va in quella direzione. Io voglio andare a 300 all'ora, allora che è più facile continuare in quella direzione che inventarsi un motore elettrico che vada a 300, ma ha senso. Per un piccolo corollario del discorso mantenere gli stili di vita e utilizzare delle tecnologie, per esempio, ecosostenibili. E uno può dire, visto che io risparmio, mi metto la coscienza a posto e consumo ugualmente la stessa quantità di energie fossili. Tanto queste sono pulite, no? Io sommo qualcosa che è pulito a qualcosa che è non sostenibile. No? Quindi anche lì, diciamo, ci deve essere un cambio di direzione nell'ambito di uso di risorse, dei tre postulati, diciamo, dell'economia sostenibile. Però ripeto, diciamo, il sistema economico attuale, soprattutto quello finanziario, diciamo, dobbiamo essere coscienti che il sistema economico attuale è appoggiato interamente al sistema finanziario. Sono due cose che diciamo, sono un po' differenti. Diciamo. Il peso dell'apparato finanziario rende trascurabile il peso di quell'economia che qualcuno chiama reale. Dobbiamo renderci conto dell'ordine di grandezza, non mi ricordo, rapporti stratosferici, cioè, non a 700, ogni dollaro reale corrisponde a 700 di moneta virtuale che gira con via azioni, via... Infatti la finanza è il nono punto che riguarda il rapporto. Non mi ricordo il rapporto, comunque... più o meno questo. Poi sempre sul lavoro possiamo pensare alla tematica dell'agricoltura, il progetto dell'agricoltura e il meccanismo locale, globale, a chilometro zero, l'idea del chilometro zero. Che anche qui se tu vai al supermercato e trovi prodotti scadenti che vengono dall'altra parte del mondo a bassissimo prezzo, cosa scegli? Quei prodotti o scegli appunto prodotti di qualità, prodotti localmente, che non hanno inquinato che non hanno, e che sono virtuosi per l'economia locale di cui fai parte? Cioè i costi ambientali, metterci i costi, almeno sì, quelli. Sì, ma voglio dire, perché sono due cose ben diverse, no? Cioè se tu vai in un ristorante a chilometro zero, sai che questo ristorante si serve, cioè fa uso di prodotti locali, biologici, e magari il prezzo è confrontabile con quelli che vengono da fuori, perché quelli che vengono da fuori comportano viaggio, trasporti, si comprano a 2 euro il chilo, come molte volte si compra a 2 euro il chilo prodotti fuori stagione al supermercato, insomma, però... Allora, incrementare cioè l'agricoltura di qualità biologica, eccetera, eccetera, locale, è una scelta ben precisa, che la si fa se si è consapevoli di tutta una serie di cose e se si creano rapporti tali come quelli che creano i gas da valorizzare l'agricoltura locale. E quindi si mette in moto tutto un circolo virtuoso. Ed è una cosa che va nel senso della decrescita. Nel senso della decrescita va tutto ciò che si oppone alla produzione di enormi quantità, cui una grandissima parte vengono sprecati. E se vai a vedere il PIL, le scelte della decrescita lo fanno abbassare il PIL, ma non significa che si lavora di meno, si lavora di più. Anzi, se tu vedi cosa è successo in agricoltura negli ultimi anni, proprio i processi di sovrapproduzione in agricoltura hanno portato al cosiddetto set aside, che ti pagano per tenere incolti i terreni. e in altre parti del mondo, paga la comunità europea, in altre parti del mondo invece di boschi. Mentre zone che tradizionalmente erano legate all'agricoltura, alla produzione agricola, eccetera, di abbandonare. Cioè, evidenziare queste contraddizioni, queste stupidaggini, no? Appunto, fa vedere che, perché appunto in questo senso decrescita funziona male come termine, ma forse allo stesso tempo c'è questo fatto che decrescita significa incremento del lavoro locale, altri tipi di lavoro, ma incremento. Cioè, con i processi in atto, in campo agricolo, per esempio, le grosse multinazionali fanno sparire il lavoro in agricoltura, mentre i gas stanno ridando speranza agli agricoltori locali, e che fanno agricoltura biologica. E questo lo si fa solo se c'è volontà di auto-organizzare e capacità di auto-organizzazione rappresentata appunto dai gas. I produttori locali che facevano agricoltura biologica e poi i loro prodotti li dovevano portare nel mercato generale erano penalizzati, non avevano nessun mercato. Avevano tante belle idee ma non avevano mercato. Solo il rapporto con i consumatori, il rapporto diretto con i consumatori e con l'organizzazione locale gli ha permesso di sopravvivere e quindi ha permesso a quel lavoro lì qualificato, alla cultura locale, di continuare. Metti che sei un produttore di olio e vuoi fare l'olio biologico. E il tuo olio non costa 5 euro il chilo, 4 euro il chilo come quello di scarsissima qualità che viene da... E tu scompari se devi competere e se non sei riconosciuto come produttore locale, se non hai acquirenti locali, quindi scompari semplicemente e i tuoi ulivi vengono abbandonati e questo significa una perdita per tutti, insomma. Sì, nello stesso tempo però io vedo questo, che con la decrescita non ti rinchiudi nel tuo localismo, no? Perché potrebbe sembrare utilizziamo le cose locali, diventa, se il discorso è a livello proprio mondiale, diventa anche solidale, perché è lo stesso discorso che dicevi tu dell'agricoltura, è quello che poi succede in Sud America, dove i produttori locali sono completamente ormai proprio captati, fagocitati dalle multinazionali. Addirittura non hanno i segni, forse vi ripeto delle cose che già sapete, non voglio fare. No, però mi veniva in mente questo discorso, no? Perché magari molte volte tu al supermercato vedi la frutta che viene dall'Africa, dal Cile, a me prende questa cosa, ma perché compriamola, no? Perché così è quasi per allargare i confini, anche se non penso neanche scadente, non è scadente così. Però in realtà c'è un problema di valorizzazione del locale che se fatto a tutti i livelli porta anche alla solidarietà mondiale, no? Perché se tu con la decrescita tuteli tutti i piccoli coltivatori, non solo quelli insomma di Lagliatico, no? di Terricciola, ma ne fai un discorso proprio a livello planetario, in un certo senso continui a difendere, fai una lotta diciamo anche contro le multinazionali, perché veramente appunto tutti questi produttori di caffè, ormai vanno scomparendo perché sono completamente assoggettati alle multinazionali, sono costretti a comprare i semi dalla Monsanto e addirittura non li possono neanche trattenere, li devono ridare, hanno fatto dei meccanismi di ingegneria genetica con i gene killer, per cui anche se li rimpiantano Terminator. Insomma, quindi il problema del locale poi ha sempre uno sguardo sul mondo, ecco questo voglio dire, perché non è una difesa solo del nostro locale come ognuno difende il proprio locale per combattere i sistemi grossi di potere economico e di... Ma comunque sì, è proprio così, perché se uno fa l'agricoltura chimica, meccanica e quella, va a finire che pianta semi che sono semi delle multinazionali. E quando utilizza questi semi, in realtà si sta comprando un'enorme dipendenza, perché le piante che vengono fuori da questi semi, se non sono stati selezionati storicamente dai contadini locali, sono piante fragili, deboli, che si ammalano e hanno bisogno di tutta una serie di supporti, che sono supporti chimici, che ti forniscono le anche loro, sì. Perché hai bisogno di fungicidi, antichrittogamici, concimi chimici e così via. Mentre valorizzare la cultura locale significa non essere più dipendenti da tutte queste, che abbassano il al solito, perché tu non hai bisogno di comprare concimi chimici, antichrittogamici, fungicidi, preparare il terreno con... non hai bisogno di grossi macchinari, di coltivare intensivamente enormi attrezzamenti di terreno, avere un'economia di scala che ti sorregga. Ma se utilizzi e fai una ricerca, che è una ricerca sulla cultura locale, in quel caso i contadini che hanno selezionato i semi, che storicamente in quel particolare microclima, per quei terreni che siano, che ne so, terreni in cui le piante riescono a sopravvivere con meno acqua, con più acqua, o i terreni sono argillosi, insomma, piante adattate e selezionate localmente dai contadini, e quindi questi semi che si riscambiano tra di loro, va a finire che c'è un prodotto più di qualità, perché non sei costretto a utilizzare schifezze chimiche, e il circuito locale assicura al contadino, il circuito di consumo locale assicura al contadino la possibilità di sopravvivere. Se lui porta le mele che si facevano qui storicamente anni fa e le porta sul mercato globale, le sue mele non se le caga nessuno, insomma, non riesce a vendere, anche se sono buonissime, perché magari sono di una pezzatura strana, non riconosciuta, non sono esportabili e così via. E questo è. Dunque sono purtroppo il tempo sta passando. Volevo dire una cosa tornando, che dobbiamo pensare, per la data, mi è venuto in mente questo, avevamo detto il 29 giovedì, però se scendiamo per la data dobbiamo pensare anche ai tempi necessari per la promozione dell'incontro. Nel senso che non basta trovare una finestra, dire il 29, se poi siamo tutti occupati prima del 29. Almeno una settimana prima bisogna pubblicizzare. Bisogna pubblicizzare, individuare. Ma questa è una cosa che forse dobbiamo cominciare, appena abbiamo la data precisa dobbiamo cominciare a lavorarci da subito. Sì, questo si può. Allora, per la prossima volta, impegni. Tutto quando è la prossima volta? Poi mi sono preso l'impegno di l'altro giovedì, quello l'altro. 21 e 7 fa 28, 7 fa 35, il 4. E io non ci sono qua. E io il corso di classe della prima F. Allora alle 18. Allora avevo già visto. Mi sembrava, anche. Quindi non ci sei neanche tu? No, non ci sono nemmeno io. 4. E allora 4 e 7 è 11. Se non facciamo 11 diamoci un impegno di abbastanza lavoro. Sì. Aspetta, poi per quella settimana dell'11 dovremmo parlare con... Perché tu mi consigliavi la seconda settimana di febbraio, che è quella dopo. In quella settimana, vabbè, tanto ci sentiamo per me. Ci andiamo tutti insieme. Ma sì, guarda, se non sarebbe male, andiamo insieme e poi parliamo. Allora, può essere una cosa positiva, sì. Io vedo. Tu cosa avete preso come impegno? Di informarmi su come fare l'associazione di promozione sociale. Tutti i passi che bisogna fare. Però non diciamo che siamo solo noi quattro. piccole voci. No, no, ma siamo più di qua. Siamo in più. No, siamo bambini. Vai, no, non lo so, ora vediamo, dai. No, ma non è importante comunque, ora faccio la battuta, però in effetti non è importante. Così. Vabbè. No, vabbè. Poi io faccio quello che non ho fatto, questa volta, perché non ho fatto delle cose. E chiedo a Boschini se è disponibile. Ma tu hai detto già. No, cioè tu hai fatto quello che dovevi fare. Cioè. No, no. Lui si impone le cose. Perché tu hai un. Vabbè. Sei andato a fare, ma questo è irreversibile. Vabbè. E poi non ho fatto la guida per utilizzare. Ah, sì, con quello sì. Ma nessuno ce l'ha tenuto. Sì. No, già l'hai detto così, ora si quindi. No, io non ma se prendi quella di Ecopedia non è la stessa. Sì, appunto. Sì. La ricordo. Ce ne sono tante, però volevo fare proprio una cosa personalizzata. Ah, ok. Ma clicca qui, clicca lì. Non è semplice. Sì. Lui non ci crede. Complicato. Ma è semplice per me. Poi allora, guida a contattare Boschini. Perché di cosa? Anche potrebbe essere... Allora, 29, 3. Comunque, fatto di conferenze, chiamiamole conferenze, di incontri che non sono molto, insomma, imbalsamati, dipende anche molto dalle persone. E io in questo ho fiducia in Boschini, perché mi sembra... che crei una un'atmosfera molto dialettica, e questo dipende molto dalle persone. Molto. E poi veramente da cose che molte volte non sai neanche valutare, perché io vidi appunto una conferenza sugli OGM con persone che erano più persone, no? Quindi sembrava partisse proprio la conferenza di quelle vecchio stampo, invece si creò proprio un bel clima molto interattivo, ma dipendeva forse dalle persone che assistevano, anche loro trovarono tra di loro una modalità di scambio, quindi purtroppo molte volte non puoi mai poi invitarvi a prendervi un caffè con sto pisello qua. Ah, già, no, ma tutti hanno invitato. Ma tutti, no? Io mi sacrifico, perché in genere i consigli che mi dà Rocco sono sempre, mi consiglio sempre persone assurde. Quindi mi sacrifico da solo. Perciò mi dai dei consigli non buoni. Uno dice cosa devo fare? Già, lo sento per te, dice, e io posso soltanto fare questo, ci prendiamo un caffè. Cioè, bella impresa, dice, è decrepito questo qui. Ma infatti, bravo. Andarci e poi no, forse da dire no fatto... no secondo me vuole vedere studiare era uno veramente interessato ti diceva quando è che vi riunite posso venire mi dispiace se vengo mi pare molto conoscere no che ci invita tutti a prendere il caffè ma che... tutti andiamo che poi il bar tipo 10 metri dopo casa sua devo registrare però è uno pigro questo si capisce le con le bancone va bene questa la tagliamo sì taglia io cerco di fare ordine in tutti i documenti che ho usato gli spunti di riflessione rileggiamo bene ma quello lo dobbiamo fare tu queste pagine di Pallante tutti questi documenti qua quello che di cui io ho diversi io, documenti sì. che possiamo prendere come magari integrare avevo portato la pennina qui ma certo che ci sono dei file molto grossi si posso mettere sul sito allora questo magari un po' di minuto per spiegare dalla tua pennina alla mia pennina quanto sono grossi no vabbè il file va cioè, si copiano facilmente ma si possono anche tu stessa puoi andare sul sito. Se posso, cioè io sono registrata, però non ho capito se posso. Sì, se puoi fare un blog, sì, sì. È che non è che è un server tanto grosso, perché non è a pagamento. Fatti quel che non devi fare. Poi